Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Guido Polito e Baglioni Hotels, il lusso italiano del settore alberghiero, di Alessandra Scaglioni. Sedi in Italia e all'estero, più di 400 dipendenti, un fatturato di 50 milioni di euro. Sono i numeri dell'azienda di cui parliamo oggi, che è un'azienda alberghiera, anzi una catena con un brand italiano, Baglioni Hotels. Presidente e fondatore è Roberto Polito. Oggi alla guida del gruppo c'è la seconda generazione, con il figlio Guido. In Toscana inizia la sua attività imprenditoriale. Ha iniziato all'inizio degli anni 70 costruendo l'Hotel Cala del Porto a Puntala. È stato il suo primo albergo. L'albergo fu inaugurato nel 73 e da lì ha iniziato la carriera come imprenditore alberghiero. Una startup della scorsa generazione, partita da Puntala nel 1973, in un momento in cui finanziare un'impresa e avviarla richiedeva idee e impegno, ma aveva difficoltà di percorso diverse da oggi. Era un momento decisamente più facile, in cui c'era maggior fiducia nell'impresa, tanto che lui all'epoca aveva 27 anni, quindi andò al Monte dei Paschi e chiese un finanziamento sostanzioso per l'epoca, oltre ad una parte invece di capitali propri che arrivavano da un'operazione che aveva fatto sempre in Toscana, e riuscì ad ottenere finanziamenti per costruire l'albergo. Oggi credo che sarebbe estremamente difficile, comunque, per un ragazzo di quell'età, seppur con un buon track record e una persona sicuramente seria e conosciuta nella zona, però ottenere un finanziamento per la costruzione di un albergo sarebbe molto difficile. Quindi sicuramente erano dei periodi in cui c'era maggior semplicità nell'ottenere finanziamenti, in cui la persona anche in banca, insomma, aveva un livello di possibilità di azione, di margini di azione, quindi se credeva nell'imprenditore poteva effettivamente dargli i mezzi per portare avanti quello che era il piano. Quindi oggi sarebbe sicuramente molto più complesso. Dai singoli alberghi alla società, sino al lavoro sul marchio, una strada attraverso cui si definisce un progetto imprenditoriale preciso. Aveva sicuramente chiaro l'idea di voler fare lusso. Quindi ha sempre lavorato per fare prodotti di altissima qualità e per poter accogliere clientela 5 stelle. Il progetto o la società Baglioni invece si è sviluppata in modo anche un po' opportunistico, diciamo così. Quindi inizialmente ha gestito, ha preso e poi rivenduto una serie di alberghi in Italia, crescendo sempre di più, iniziando piano piano a coprire le città più significative, e quindi, diciamo, nel percorso che ha svolto poi ha individuato una strategia ben chiara, che era quella comunque di essere presente in città italiane importanti e all'interno di queste città in location primarie. Quindi tutte le nostre strutture sono all'interno delle città dove si trovano, nelle location migliori della città. Quindi diciamo che questa visione l'ha sempre avuta. Poi l'attività iniziale è nata più come una gestione di una serie di alberghi indipendenti, e poi, diciamo, negli ultimi 10-15 anni si è iniziato a lavorare invece ad un concetto più di brand e di compagnia gestita in modo unitario. Un momento fondamentale è stato quello dell'acquisizione del Baglioni Hotel di Bologna. Acquisito, ristrutturato, cresciuto, diventato un punto di riferimento e poi venduto nel 2010. L'albergo da cui il gruppo prende il nome. Credo che il passo più importante fu l'acquisizione in gestione del Baglioni di Bologna, che ad oggi non è più parte del nostro portafoglio, ma all'epoca era un albergo storico di Bologna chiuso da tanti anni, che mio padre prese in gestione, ristrutturò, e per 15 anni, almeno da metà degli anni 80 quando è stato aperto fino ai primi anni 90, è stato indubbiamente uno degli alberghi di riferimento in Italia, quindi dove accoglievamo la miglior clientela che passava da Bologna. All'epoca comunque c'erano tanti primi ministri, tante celebrities, con Pavarotti and Friends all'epoca, quindi tutto il parterre è sempre stato da noi, quindi è stato un albergo, uno dei primi grand hotel proprio italiani. Poi purtroppo la storia della città si è sviluppata in un modo non ottimale, quindi nel 2010 poi abbiamo deciso di lasciare l'albergo perché non era per noi più conveniente continuare a gestirlo. Quindi quello è stato un momento sicuramente di grande dispiacere, perché l'albergo rappresentava il primo grande albergo di mio padre e anche l'albergo dal quale il nome Baglione della compagnia è nato. Il progetto imprenditoriale guarda all'estero, alla presenza fuori dall'Italia, per portare in altri paesi il valore dell'italianità. Baglioni diventa un brand internazionale. Il salto di qualità da questo punto di vista l'abbiamo fatto nel 2003, quando abbiamo aperto l'albergo di Londra. In Londra è una città, insieme a New York e Parigi, probabilmente tra le prime tre a livello mondiale. E avere un albergo su Londra con il nome Baglioni ci ha portato una visibilità enorme. Enorme. Un albergo poi che ha rappresentato un grande successo, quindi seppur diverso, è stato anche un po' una sfida coraggiosa per noi, perché è un albergo piuttosto diverso rispetto agli alberghi italiani, quindi più di design, con un approccio più giovane, e quindi si differenziava anche dallo stile che ci ha contraddistinto fin dalla nascita della società. Il successo di quell'albergo è stato enorme, quindi ci ha portato una grandissima visibilità che ci ha permesso di sempre di più essere percepiti come uno dei migliori brand di lusso nel settore alberghiero a livello internazionale, sicuramente direi a livello italiano ed europeo. E proprio dall'estero arriva una parte del fatturato che in questi anni è aumentata sia per il percorso dell'azienda che per la congiuntura. Ed è cambiata anche la percentuale di turismo internazionale. Per noi, come dicevo, è stato un percorso, nel senso che negli ultimi anni abbiamo spinto molto di più le nostre attività all'estero. Di conseguenza la fetta di fatturato derivante dall'estero è aumentato. E questo poi oltretutto si è andato a sposare con una congiuntura economica assolutamente negativa in Italia. Quindi negli ultimi due anni la percentuale di fatturato italiano è diminuita in modo anche abbastanza sensibile. Fortunatamente appunto abbiamo iniziato già in tempi non sospetti a lavorare su nuovi mercati. Lavoriamo benissimo col mercato brasiliano, lavoriamo molto bene col mercato australiano, bene col mercato russo, il mercato medio orientale, oltre ovviamente al mercato americano, che rimane il mercato principale. Però abbiamo una frammentazione piuttosto ampia del nostro fatturato che ci ha permesso anche in questi anni comunque di avere, dopo il 2007, insomma, una ripresa continua anno dopo anno, ritornare sui livelli del 2007, cioè l'anno scorso, e comunque quest'anno mantenere il fatturato inalterato, che insomma, riteniamo sia un buon risultato. Le strutture sono per la maggior parte piccoli alberghi di lusso intorno alle 80 camere. Ad oggi abbiamo Roma, abbiamo Firenze con il Relais Santa Croce, e non il Baglioni di Firenze, ma il Relais Santa Croce, ci tengo a precisarlo. Venezia, Milano, Puntala, appunto da dove siamo partiti, Londra, e abbiamo in apertura Marrakech e Bombay. Poi abbiamo tre strutture in Francia, che sono un prodotto un po' atipico rispetto ai Baglioni Hotels, perché sono strutture di circa 20 camere tipiche Relais Chateau. Uno in Saint-Paul-de-Vence, a Aix-en-Provence e nello Champagne. Oltre all'ospitalità alberghiera, uno dei settori in sviluppo è quello della ristorazione. Abbiamo puntato sulla ristorazione con Londra, in quanto è una piazza in cui fare ristorazione all'interno dell'albergo è molto più facile che in Italia. In Italia purtroppo da sempre c'è stata la concezione che l'ospite esterno aveva difficoltà ad entrare in albergo per cenare. E il ristorante dell'albergo non è mai stato visto come un punto di ritrovo fino agli ultimissimi anni, mentre a Londra la situazione è molto diversa. Quindi a Londra abbiamo lanciato, quando abbiamo aperto, il Brunello Bar and Restaurant, che è un marchio che poi abbiamo replicato su Roma anche con un buon successo. E quindi, ritornando all'italianità, ci abbiamo puntato perché l'aspetto culinario è un aspetto molto, molto importante per chi viene a visitare l'Italia. Quindi a prescindere poi dal brand, dal singolo ristorante, è un aspetto trasversale in tutti i nostri hotel, in cui curiamo molto e abbiamo chef di grande livello. Guido Polito è amministratore delegato dall'anno scorso, ma lavora nel gruppo di famiglia da diversi anni, con un passaggio di testimone dal padre avvenuto presto e di maniera lineare. In azienda lavora anche un altro fratello che si occupa di comunicazione. Il passaggio generazionale è avvenuto l'anno scorso, quando ho assunto la nuova carica di amministratore delegato. Ho avuto la fortuna comunque di lavorare insieme a mio padre per tanti anni, quindi dal 2003 io ero a Londra quando abbiamo preso l'albergo di Londra, quindi come primo progetto ho seguito la ristrutturazione e l'apertura dell'albergo di Londra. Quindi stando comunque 9 anni, 8 anni al fianco di mio padre, questo ci ha permesso di fare un passaggio graduale, trovare l'alchimia giusta, trovare i giusti equilibri tra quello che magari è stata la sua visione e quella che è la mia. Quindi è stato, devo dire, un passaggio assolutamente in dolore, mettiamo così. Ho avuto comunque la grande fortuna di avere un padre che poi ci ha creduto e ha deciso, nonostante sia ancora estremamente energico, di passare il testimone ad un figlio comunque giovane. Quindi questo è sicuramente un'opportunità importante. Tra i progetti già avviati, l'arrivo in mercati nuovi nei prossimi 3 anni e l'idea di non fermarsi. In Marrakesh in apertura l'anno prossimo, dovrebbe aprire settembre-ottobre 2013, e un nuovo progetto, così come Bombay, che aprirà invece fine 2014-inizio 2015. E sono entrambi due progetti con contratti di management, e come dicevo prima rappresenta un nuovo modello gestionale per la Baglioni, ed è il modello su cui vorremmo continuare lo sviluppo della società. Siamo andati su 2 mercati nuovi e stiamo lavorando anche su tanti altri, quindi sono dei mercati per noi fondamentali sui quali speriamo di arrivare presto. Parigi, New York, cito 2 più importanti, ma ce ne sono anche altri su cui stiamo lavorando. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.